ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere. Le parole che Christa Wolf, nella sua Cassandra, mette in bocca a Denone sono le parole scelte da quelle donne calabresi che hanno interrotto la consegna del silenzio e la regola della sottomissione. Storia di donne che si sono riprese la propria esistenza a partire dalle parole. Storia di donne che sono uscite dalle proprie case dove erano state recluse e hanno scelto di agire e non più di tacere. Nella terra del silenzio, la Calabria, capita così che diventi rivoluzionario il gesto apparentemente semplice di raccontare. Lo fanno donne di famiglie mafiose come Giuseppesce, Maria Concetta Cacciola. Lo hanno fatto donne venute da lontano come Angela Casella o Rossella Carini. Lo ha fatto chi, come Maria Teresa Morano, oggi alla guida dell'antiracket a Lamezia, mise insieme a Cittanova, cuore di una delle più sanguinarie faide d'Indrangheta, una rete intorno a quegli imprenditori che decisero, come il padre, di non subire l'imposizione del pizzo e ribellarsi. Sono una teoria di facce e vicende molto diverse le storie raccontate da Francesca Chirico, collega calabrese, in Io parlo, storie di silenzi interrotti e di parole coraggiose sfogliate dal palco del Festival Trame. Solo comprendendo qual è la densità e il significato del silenzio in Calabria si può comprendere perché le parole imbracciate da donne danno così fastidio. Sul silenzio in Calabria, raccontato spesso in maniera un po' per stereotipi, banalizzandolo, generalizzandolo, collegandolo esclusivamente alla paura delle cosche, silenzio uguale omertà, no? Io conosco soprattutto il significato del silenzio ed è da qui che sono partita. È un silenzio molto più denso, molto più profondo e molto più radicato di quello che si potrebbe collegare in maniera semplicistica esclusivamente alla paura dell'andrangheta, alla paura delle cosche. È un silenzio impastato di senso di impotenza, rassegnazione, fatalismo, come habitus mentale che ci viene proprio da lontano, forse come eredità di una civiltà contadina in cui a maneggiare le parole erano solo i potenti e gli altri non potevano che abbassare la testa e vivere giorno per giorno la loro fatica ed era inutile parlare perché tanto no, non si poteva cambiare il proprio destino. In Calabria quell'habitus mentale è ancora presente. La donna proprio nella nostra civiltà contadina è quella che sta in casa, non vive la polis come esposizione pubblica, vive l'oikos, vive l'intimità della casa. Ecco, la donna che in Calabria parla e si espone pubblicamente, espone il suo corpo, espone le sue scelte, va incontro a due tipi di reazioni. Ed è quello che ho potuto registrare in questo libro raccontando più o meno 30 anni di storia. Sono storie che ho incrociato negli ultimi 30 anni, dal 1981 con la vicenda di Rossella Casini fino alle ultime collaborazioni che arrivano dalla Piana di Gioia Tauro, da Rosarno, da Giuseppesce. Da una parte c'è la reazione che ti aspetti, la reazione degli uomini delle cosche, che magari tu che hai denunciato ti telefonano e ti dicono che ti taglieranno la lingua, o quando passi in aula ti dicono buttana. Ti dicono che l'acqua per il porco sta bollendo. Ma c'è un altro filone delle reazioni, di quelle che vengono dalla cosiddetta società per bene, che invece di starti a fianco trova scandaloso questo tuo esporti in piazza. Ad Angela Casella, che veniva da Pavia, veniva da fuori e si incatenò di fronte al tribunale di Locri, furono moltissimi a Locri a esprimere la propria solidarietà. Qualche anno dopo, nella stessa piazza, ad una mamma di Locri, Liliana Carbone, no, non andrà allo stesso modo, nel senso che ci saranno solo i carabinieri. La Locri per bene cambierà marciapiede per non essere coinvolta. E allo stesso tempo all'accordo Patri, sì, le diranno ti tagliamo la lingua. Ma ci sarà anche, per esempio, la proprietaria della lavanderia di fiducia che all'indomani della sua scelta di testimoniare contro i mammoliti per chiedere giustizia, alla Cordopatri gli hanno ammazzato un fratello, la inviterà gentilmente ad aspettare il suo turno fuori perché non vuole avere niente a che fare con lei. Tu parlavi di quelle parole, di una delegittimazione che è costante e che non cambia, guardate. Il tipo di meccanismo che scatta di delegittimazione è uguale. per non dare valore alle tue parole io svilisco te come essere umano. La donna è pazza, la donna è instabile, è fragile, è psichicamente fragile, è imbottita di psicofarmaci, qualunque cosa dica non ha valore, e da qui il richiamo a Cassandra. È molto vero quello che dice Francesca, nel senso che, come spesso succede, le cose sembra che nascano in un momento perché in quel momento vengono raccontate. È vero, adesso ci sono state delle collaborazioni importanti, ci sono stati dei segnali importanti e vicini nel tempo e nello spazio che fanno sì che in questo momento il fenomeno delle donne, soprattutto delle famiglie di 'ndrangheta che parlano, sia quello che più preoccupa la 'ndrangheta stessa. Però è molto vero quello che diceva Francesca, ci sono stati negli anni passati casomai persone singole, donne singole, persone che ancora più coraggiosamente hanno deciso di cominciare e di fare la propria parte, di raccontare perché era successo casomai qualcosa a loro direttamente, ma non hanno trovato intorno un contesto che li sostenesse e che li appoggiasse, anzi la reazione generale e più diffusa è quella della denigrazione, perché nella migliore delle ipotesi queste donne vengono accusate di volersi esibizioniste. Nelle tante storie che Francesca racconta c'è anche quella di chi decise anni fa a Cittanova, che è il paese da cui ha origine Maria Teresa Morano, di mettersi insieme per far sentire anche in quel caso la propria voce. C'erano state delle intimidazioni a degli imprenditori, gli imprenditori, compreso il papà di Maria Teresa, cominciarono a mettere dei paletti, a dire no, ma ad un certo punto poi sono state anche delle figlie di questi imprenditori che hanno sentito la voglia e il bisogno di dire ci sono anch'io, io parlo. E questo però, mi sembra di percepire, non sempre anche in quel caso ha trovato fiumi di persone pronte a venire al vostro fianco. Proprio come dici tu, e del resto il più grande momento di paura che io ho provato è stato non tanto quello iniziale quando sono venuta a sapere della situazione, come dire, del pericolo che in qualche modo si correva in casa, ma ricordo una frase di un mio pseudo amico che il giorno dopo la testimonianza del mio papà in tribunale e di tutti gli altri imprenditori che insieme a lui avevano denunciato e che quindi erano andati a confermare per la prima volta nella storia, si trovarono queste 12 persone nel tribunale di Palmi, è una cosa che non era mai successa. Ebbene, questo mio amico mi disse, mi sono chiesto, ma chi glielo ha fatto fare? Beh, questa cosa è stato il primo momento nel quale io ho avuto paura, mi manifestava questa riserva, allora ho capito che forse noi eravamo forti di essere in 12 famiglie, però ho capito che intorno a noi avremmo dovuto creare il consenso, no? Perché sennò saremmo scivolati in quel tunnel della denigrazione, ma questi che vogliono, ma questi che cercano, queste due giovanette allora dicevano di me e Maria Concetta, ricordiamo che Maria Concetta è stata insieme ai 12 imprenditori in tribunale a testimoniare proprio perché lei subì un'irruzione in casa di questi mafiosi e insomma andò a testimoniare quello che le era successo. Ebbene, di noi cominciarono a dirlo, ma queste due, ma queste che cosa vogliono, queste svergognate, quello che stavamo facendo, il fatto di coinvolgere altre figlie, di coinvolgere le mogli, significava dare più forza a questi uomini, ed è lì che è nata le prime informazioni sulle associazioni anti-racket, su quello che era appena avvenuto a Capodorlando. Diciamo che quella di Cittanova è un'esperienza che nasce da 11 grandi uomini, però ricordiamo, nasce anche che cosa vuol dire farla nascere a Cittanova. Cittanova non è esattamente un paesino tranquillo di una regione placida, già siamo in Calabria, ma Cittanova è stata il sinonimo di una delle più aspre faide di 'ndrangheta che ci sono state. Cittanova è una città nella quale ci sono stati tantissimi morti e sono stati uccisi anche due bambini di 8-10 anni, una città che aveva proprio vissuto sulla propria pelle la crudeltà di queste dinamiche mafiose. Diventa ancora più forte perché a parlare sono donne. Io, da quando mi sto occupando di tutte queste vicende al femminile in Calabria, sto diventando femminista, cosa che non sono mai stata. Non può essere considerato normale tutto quello che succede, perché se queste storie che Francesca Chirico racconta diventano una notizia, è perché avvengono in una realtà dove non viene considerato normale che ci siano delle persone che parlano. La denigrazione parte dal fatto che le donne in Calabria a un certo punto hanno deciso di uscire da quelle case dove vengono recluse è la parola giusta. Se questa è la dimensione di vita, allora si capirà bene come diventa rivoluzionario avere il coraggio di parlare. Forse una cosa che dovremmo sottolineare con forza è che le imprese di quelle 12 persone sono ancora a Cittanova aperte, nessuno di loro è andato via, loro sono ancora lì. E a proposito di donne che vivono in determinate case, non parliamo di case calabresi. Però permettimi di dire che non in tutte le regioni è così. Noi parliamo di case di precisi contesti mafiosi. Certo. E i contesti mafiosi ci sono anche in altre regioni. Figurati, lì dove certo. Appunto. Milano è piena. E allora, io da ragazza calabrese non sono cresciuta come è cresciuta Giusy Pesce. Tutte le mie coetanee, tutte le mie amiche non sono cresciute come Cetta Cacciola. Detto questo, da calabrese io ritengo inaccettabile che donne calabresi, e non importa che cognome portino, vivono in determinate condizioni. A Cittanova, mentre loro ragazze facevano quello che Maria Teresa Morano ci ricordava, c'erano altre donne dall'altra parte che facevano altro, ed erano le donne dei Facchi Neri. Le donne dei Facchi Neri, che i piccoli Facchi Neri che erano stati portati via da Cittanova proprio perché erano stati ammazzati addirittura dei bambini, quando andavano a trovarle a Città di Castello dove erano state portate, cioè loro crescevano appunto in queste case assolutamente strane al contesto mafioso, ma durante le visite quelle madri che appartenevano a quel contesto mafioso ne approfittavano per dare le loro piccole pillole di saggezza. Le pillole di saggezza era: ricordati che sei un Facchi Neri e c'hai il papà da vendicare a casa. Noi stiamo parlando di donne che sono uscite dalle case di 'Ndrangheta e che hanno fatto scelte dirompenti, hanno sbattuto la porta, hanno spento il focolare domestico, soprattutto si sono portate via i figli. Tu racconti anche il coraggio di chi decide di uscire di casa e raccontare anche se non appartiene a delle famiglie mafiose, nonostante delle persone per bene, alle vicine dice: ma chi te lo fa fare? Questo sì, però non tutte le donne di 'Ndrangheta parlano, e mi interesserebbe anche parlare di quelle che invece dalla casa non sono uscite e che in casa restano. E restano con due tipi di atteggiamenti, secondo me. Però da una parte ci sono quelle che restano a casa piangendo di nascosto e sperando di avere da un giorno all'altro l'occasione giusta di incrociare lo sguardo giusto, magari del carabiniere donna o del poliziotto donna, e quindi di farlo quel salto. Però ci sono pure le donne che a casa ci stanno con orgoglio, tronfie, è assolutamente padrone, cominciano ad avere ruoli sempre più operativi. In alcune cosche è così aumentato il ruolo femminile attivo che ci sono donne come Giuseppa Bonarrigo, nonna della collaboratrice di giustizia Giusy Pesce, che è stata la custode della cassaforte del clan che comanda sulla piana di Gioia Tauro e Rosarno. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo, perché se alcune donne hanno deciso di sbattere la porta e tradire i codici di 'Ndrangheta, molte altre in quella veste ci stanno ancora molto bene. A ciascuno il suo. Un manifesto a lutto è appeso da mesi davanti all'ingresso di una villetta ocra di Rosarno. Cacciola Maria Concetta, anni 31. È morta per l'acido muriatico che dentro gli aveva bruciato tutto, questa ragazza. Un litro che gli ha distrutto innanzitutto quella bocca e quella lingua con cui lei aveva usato trasgredire e parlare. E per la sua morte 21 anni sono stati chiesti dal procuratore di Palmi, Giuseppe Creazzo, per i genitori e per il fratello, perché in sostanza, secondo l'accusa, i maltrattamenti e la violenza l'avrebbero portata al suicidio, perché loro l'avrebbero spinta a ritrattare quelle dichiarazioni che lei, rampolla di una famiglia di 'Ndrangheta, aveva messo a verbale. Oggi dovrebbe arrivare la sentenza per questo caso, molto delicato e importante anche perché per la prima volta i magistrati hanno tolto alla famiglia i figli della testimone di giustizia morta per cercare di salvarli da quell'ambiente. tutto è partito dalla scelta di parlare nella terra del silenzio. Una scelta tanto più radicale, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, perché partita da una donna che diventa pazza, puttana, esibizionista, secondo gli epiteti affibbiatele dall'opinione pubblica, quando sceglie di non starsene più zitta, come raccontiamo con Francesca Chirico, autrice di Io parlo, e Maria Teresa Morano dell'Antiracket di Lamezia Terme. Alcune donne parlano perché forse vogliono qualcosa di meglio e di diverso dal bagno Versace e dal marito che quando torna a casa le prende a pugni o dal suocero che le deve seguire perché non possono uscire da sole. Ma ci sono delle donne che hanno completamente introiettato quel mondo e che, cosa ancora più dolorosa, lo tramandano. Perché è così dirompente il fatto che queste donne scappino di casa? Perché sono un esempio, ma soprattutto perché si portano via delle donne, delle future donne che non saranno donne di 'ndrangheta, e si portano via bambini che non saranno futuri boss. Levano, confiscano alla cosca il loro futuro. Ecco perché Antonino Pesce, prima che i giudici si ritirino per la sentenza All Inside, ci sono molte donne in galera, una sola cosa dice: vi prego giudici, siate clementi con le donne, per buon cuore? No, perché già c'è Giusi. E poi si sa, il cervello delle donne è un filo di capello. Se arriva una condanna, magari ci ritroviamo con altre due o tre donne che parlano. Garanzie che fino a quel momento erano state così forti che Giusi Pesce, nel momento in cui racconta che cosa vuol dire il codice d'onore nella sua famiglia, nella sua cosca, racconta che il codice d'onore prevede la morte per chi tradisce e sa che quella regola varrà anche per lei. E lo dice con accettazione, con rassegnazione, perché quella è la legge, l'ha imparato fin da bambina. Hai detto che quando Angela Casella è scesa in Calabria, le donne di Locri facevano la corsa per andare a darle la solidarietà. Tu stessa hai raccontato che poi dopo, quando invece c'è stata un'altra donna di questa stessa terra che andava a chiedere notizie appunto dei suoi figli, non ha avuto lo stesso tipo di accoglienza. Perché? Angela Casella era una forestiera, seguita da una ventina di inviati da tutti i giornali, di tutti i giornali, le televisioni. Sì, in piazza Locri c'erano anche molti politici e c'erano anche altre donne. Angela Casella però visita la Locride. Ad una forestiera è più semplice. Senza dubbio, ma perché quelle donne lì alla forestiera vanno a dare solidarietà e alla figlia della loro stessa terra non vanno a dare solidarietà? Esatto, perché non ti mette in discussione. Ad una di Pavia che viene a cercare il figlio, tu li attribuisci l'appartenenza ad un altro mondo, ad altre regole. Per cui puoi accettare che una venga a fare esibizionismo, perché tanto è forestera. Se la fa la tua vicina di casa, che appartiene al tuo stesso mondo, ti mette in discussione, perché dice: io parlo e tu no. È un atto d'accusa ambulante. Ed è qui che tu hai più difficoltà a metterti in discussione e soprattutto a schierarti, a dimostrare da che parte stai. È vero, a Liliana Garbone non sono stati in tanti a dimostrare solidarietà quel giorno, però posso dire che Liliana Garbone ha potuto contare anche su una rete che nell'80 non esisteva. Angela Casella va a San Luca, preceduta da elicotteri, un tour, carabinieri, polizia. A San Luca c'è una certa freddezza. Il sindaco vuole approfittare dell'occasione, ha organizzato un consiglio comunale aperto per esprimere solidarietà. Ad alcune case escono delle donne, abbracciano Angela Casella facendosi fotografare di fronte alle telecamere, facendo ben attenzione che le telecamere lo facciano, e improvvisamente dalle case si apre tutto, tutti circondano Angela: cara mia, che cos'era successo? Lo capiscono subito i carabinieri e la polizia. Quelle prime donne sono mogli o figlie dei boss e hanno avuto in qualche maniera, come dire, il placet di andare ad approfittare dell'occasione sul piano mediatico. Alcune di quelle donne hanno i figli in carcere per sequestri e una dice ad Angela: in fondo tuo figlio e mio figlio sono nella stessa situazione, sequestrato il tuo, in prigione il mio. Lei non lo sa, ma quel giorno riceverà la solidarietà del fratello della persona che sta tenendo il figlio sequestrato. Volevo chiederti se in qualche modo per te è stato coraggioso parlare e se per te ha avuto delle implicazioni. Non coraggioso, ma doveroso. Le implicazioni positive? Sì, ce n'è stata una, legata ad una di quelle storie che ho raccontato, forse la storia più dolorosa, la più dimenticata, la più triste. Rossella Casini, che ha avuto la mala sorte di incrociare la parte peggiore della mia terra, della nostra terra, alla fine degli anni 70, innamorandosi di un ragazzo di Palmi che studiava a Firenze, ignorando ovviamente quale fosse il contesto in cui questo ragazzo era cresciuto. Rossella lo segue a Palmi e resta invischiata in una faida, perché il fidanzato, la famiglia del fidanzato è parte di questa faida, la combatte. Il papà del fidanzato viene ammazzato, lui stesso viene ferito. Rossella parla perché non fa parte del mondo in cui c'è il silenzio. Convince il fidanzato a farlo, il fidanzato ritratterà in soldoni. Rossella scompare nel nulla nell'81 e non se ne saprà più niente, fino a quando un pentito dirà che l'hanno sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Rossella fu punita, questa è l'accusa, perché era un infame, perché aveva convinto il fidanzato a parlare, perché lei stessa aveva parlato. Il fidanzato appunto si chiamò fuori in galera, lei restò sola fuori senza sapere cosa fare, senza conoscere i meccanismi ovviamente dell'andrangheta e ne fu risucchiata. Saranno tutti assolti, e non perché i giudici non credano che lei sia stata ammazzata, perché nelle sentenze c'è scritto chiaramente. Rossella fu ammazzata dall'andrangheta, fu ammazzata dai Gallico perché è infame, ma perché dopo tutti quegli anni non c'erano sufficienti prove. Rossella ha avuto anche la sventura di essere figlia unica. Scomparsa lei, i genitori muoiono di dolore, prima la mamma, poi il papà, che non vedrà neanche l'ultima udienza del processo. Sono le famiglie a tenere accesa la luce della memoria. Rossella non ce l'ha avuto questo. Quindi è rimasta senza tomba, perché non si sa che fine ha fatto, senza giustizia e senza memoria. È successo che a Firenze, dove Rossella era stata completamente dimenticata e dove io avevo cercato notizie, a Firenze hanno improvvisamente ricordato di avere una vittima di 'ndrangheta. E il nome di Rossella è risuonato per la prima volta quest'anno, il 16 marzo, il 21 marzo, quindi data in cui si ricordano le vittime delle mafie, proprio a Firenze è stato pronunciato Rossella Casini. È una città che si riappropria di una vittima dimenticata e lo fa al posto della sua famiglia. E di lei non era rimasta neanche una foto. L'abbiamo trovata dentro l'archivio dell'Università di Firenze a cui era iscritta. Il fatto che delle parole abbiano comportato questo recupero, per me è assolutamente la gratificazione più grande. E a voi, e mi rivolgo soprattutto alle donne, è mai capitato che qualcuno vi dicesse: ma chi ve lo fa fare di parlare, di esporvi? Se vi va, raccontateci la vostra storia sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!